Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis. C'è il sistema GPS, lo conosciamo tutti ormai, Global Positioning System, è quello su cui si basa il navigatore del vostro cellulare o della vostra auto, per esempio. Lui, il navigatore, non è altro che un calcolatore con l'antenna che riceve segnali da una costellazione di satelliti in orbita intorno alla Terra a circa 20.000 km di distanza e sulla base di questi segnali calcola la propria posizione sulla superficie terrestre. Il principio non è molto diverso da quello che è stato usato per secoli dai marinai per fare il punto in mezzo al mare dopo aver osservato per esempio la posizione delle stelle. Perché tutto funzioni, il sistema GPS serve che almeno 4 satelliti si trovino sopra l'orizzonte in ogni momento ed ecco perché ne servono un bel po' di satelliti, ne serve appunto una costellazione. I satelliti del sistema GPS sono 24 e già oggi ci permettono di geolocalizzare un oggetto o una persona con una precisione di alcuni metri, che è sufficiente per molte applicazioni ma non per tutte. Ma c'è un altro dato interessante che riguarda il GPS. Il GPS è un sistema di proprietà del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il quale potrebbe decidere di spegnerlo quando gli pare. Certo, non senza ragioni di sicurezza nazionale, ma non si sa mai. Sta di fatto che molti paesi si sono dotati o intendono dotarsi di una propria costellazione. C'è la Russia, che bene o male un sistema ce l'ha già, c'è la Cina che lavora al progetto Compass, l'India e così via. E poi c'è l'Europa, che ha messo in orbita già i primi 2 dei 30 satelliti che andranno a costituire la costellazione Galileo. Che cosa ci aspettiamo da Galileo? Beh, anzitutto precisione, come non si era mai vista prima. E per farci che cosa? Beh, ne parliamo con l'ingegner Antonio Bottaro. Buonasera, Bottaro. Buonasera agli ascoltatori di Radio 24. Responsabile del team di innovazione, ricerca e sviluppo di SOGEI, la società ICT del Ministero dell'Economia che gestisce alcune delle più importanti banche dati del paese, come quella dell'Agenzia delle Entrate, e dei Monopoli e così via, e che sta anche seguendo per vari scopi istituzionali il progetto europeo Galileo. Eccoci qua, Bottaro. Allora, Galileo e gli altri sistemi che pian piano andranno in orbita permetteranno di aumentare, abbiamo detto, la precisione, è quello che ci aspettiamo. Ma a quanto si può arrivare di precisione? Essenzialmente si passerà dal metro al centimetro in tempo reale. L'interoperabilità tra le varie costellazioni avverrà nel 2020. Noi dal 2015 avremo i 24 satelliti Galileo. Questa copertura consentirà l'allestimento di stazioni di terra in grado di calcolare dei modelli di correzioni che verranno comunicati immediatamente ai GPS portatili, ai rover che arriveranno a queste precisioni. Insomma, il meccanismo è basato sul fatto che ci sono tanti più segnali e quindi si fa una specie di grande media, possiamo dire così, sia di satelliti, perché ce ne saranno di più, e poi lei ha anche parlato di stazioni fisse, quindi i ricevitori fissi che sono in grado di calcolare tutto il modello, di risolvere tutto il modello in tempo reale e quindi fornire a velocità molto maggiori un aiuto ai GPS che mobili, perché possiamo spiegarla forse in questi termini molto semplicistici: essendo fisse riescono, come dire, a stimare l'errore che fanno gli altri navigatori, perché loro sanno dove sono. Dunque, data una soluzione molto vicina al vero, questi modelli riescono a fornire, diciamo, i delta da quello che manca, insomma, per arrivare alla precisione del centimetro. Perfetto. Ecco, e che prospettive apre questa geolocalizzazione di precisione? Qualche esempio ce lo può fare? Sì, essenzialmente va dalle misure topografiche che si fanno in qualche minuto invece del solito tempo. Catastro. Quando noi vediamo in giro le persone con le stadie, i satelliti, quelle misure comportano grandi skill, conoscenze e molto tempo da risolvere. Invece in questo caso si misura velocissimamente. L'altra cosa, monitoraggio di strutture, non so, di dighe, di frane, di stabilità dei versanti, fino alla guida di precisione in strada, per esempio, sarà possibile pericolose. Sarà possibile distinguere se un'automobile si trova sulla corsia numero 1, numero 2, numero 3, per esempio, cosa che oggi è assolutamente impossibile. E poi pensiamo, insomma, per esempio alle applicazioni nel campo della salute. Beh, lì forse anche la geolocalizzazione di qualche metro può essere sufficiente, ma anche degli anziani, certo, l'Alzheimer, verificare le persone, seguire che non si perdano. Certo, ecco, e poi c'è questa prospettiva, cui abbiamo accennato qui a Smart City, della Internet of Things, quindi dell'Internet delle cose. Vuol dire che sempre più oggetti saranno connessi a Internet e avranno anche bisogno di sapere dove si trovano per svolgere il loro compito. Ecco, qui c'è il grande problema, qui c'è il problema della copertura. Già. Che a cielo aperto il satellite la dà in maniera molto semplice, mentre quando si passa all'interno degli edifici e diventa... Lo sappiamo tutti, non funziona più il navigatore, no? Esatto, in questo caso bisogna risolvere le cose con degli artifici tecnologici. Sogei da questo punto di vista sta lavorando e ha presentato e ha sviluppato un prototipo di un ricevitore software su PC, che è uno dei modi per risolvere la propagazione del segnale all'interno di edifici. Quindi voi trasformate un computer in una stazione GPS fissa praticamente, con una specie di chiavetta, antenna, qualcosa del genere. Sì, una specie di USB che risolve il problema del segnale della conversione analogico-digitale, e il resto viene risolto da un modello matematico. Perché è così importante che sia software? Perché non è solo una questione del fatto che il computer c'è già. La possibilità di connetterlo con RFID, con altre tecnologie, per la possibilità, per esempio, di annoverare tutti i nuovi satelliti che vengono inviati. Esatto. Ad oggi se ci riferiamo a ricevitori in cui c'è un firmware è necessario fare un intervento fisico, invece cioè, in questo caso è un download. Esatto, cioè noi andremo incontro a questa fase di transizione in cui ci saranno sempre più satelliti per aria, ma molti apparecchi non saranno in grado di utilizzare queste nuove informazioni a meno di non essere modificati però pesantemente. Invece lì si può intervenire facilmente per via software. Questa è forse l'innovazione più importante. Grazie ingegner Bottaro. La ringrazio, arrivederci. Beh, insomma, avete capito che le implicazioni per la Smart City, per la città intelligente, possono essere davvero moltissime. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.